Siamo pronti per la parola di Dio? Amen. Cosa dice Giovanni 3,16? Partiamo da un'interrogazione. Papà le faceva spesso, in contesti un po' più piccoli era più facile a tu per tu, addirittura chiamare per nome le persone e far citare versi a memoria. Però c'è qualche coraggioso che vuole alzare la sua voce e dire che cosa c'è scritto in Giovanni capitolo 3 al versetto 16? Io lo sapevo che ci doveva essere questo brusio incerto. C'è sempre stato in chiesa questo brusio incerto. C'è qualcuno, visto che abbiamo Valerio in prima fila, che ha appena finito il percorso 1, col suggerimento di Antonio, che gli darà una mano, speriamo che Antonio lo sappia almeno il verso a memoria, ci vuoi dire che cosa c'è scritto in Giovanni 3,16? Tieni, ti do il microfono. Non mi siedo più vicino. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita in eterno. Bravissimo. Dai un applauso più forte a Valerio, grandioso. E da pochi mesi in chiesa e già conosce questo verso a memoria. Sarei tentato di andare a pizzicare qualcuno che da qui da anni e magari Giovanni 3,16 non lo conosce. No, lo conosciamo tutti, vero? Com'è che comincia? Dio ha tanto amato. Fermiamoci qua. Dio ha tanto amato. Dio ha tanto amato il mondo. C'è un altro verso nella Bibbia che dice che l'amore consiste in questo, non che voi avete amato Lui, ma che Lui ha amato voi. L'amore, l'iniziatore dell'amore è Dio. È Lui che ha scelto di amarci. Non ha scelto di amarci quando eravamo perfetti, non ha scelto di amarci quando abbiamo scelto noi di ricambiare questo amore, non ci ha scelto di amare quando siamo diventati moralmente più adeguati a una relazione con Lui. Lui ci ha amati, punto, perché la Bibbia comincia col dire che Dio ci ha creati. Noi siamo creature sue e in Giovanni 3,16, come in altri versi della Bibbia, Dio stesso ci tiene a sottolineare il fatto che tu e io siamo amati da Lui. Ed è per questo che Lui ha dato il suo figlio a morire per noi, è Lui che ha pagato il prezzo di riscatto per liberarci dalla pena che gravava su di noi, il peccato. Noi otteniamo salvezza, come c'è scritto in Efesini 2, non per meriti nostri, non per opere da noi compiute, non perché ci comportiamo bene, ma per... Grazia, che non è grazia morgese, non è una persona, la grazia di Dio è il dono immeritato che Lui ha rivolto a ciascuno di noi. Tu sei sotto la grazia di Dio, a te tocca solo ricevere questa grazia e riconciliarti a Lui che tanto ti ama e vuole perfezionare e farti vivere una vita piena. Gesù dice in Giovanni 10,10, io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita in abbondanza. Gesù vuole il meglio per noi, vuole il meglio per le nostre famiglie, vuole il meglio per le nostre vite individuali, vuole il meglio per la nostra carriera, vuole il meglio nelle nostre relazioni, Lui vuole il meglio nella nostra quotidianità. Ed è per questo che noi, anche stasera, attingiamo dalla Sua parola, perché io non ho niente di buono da dirvi, se non attingendo dalla parola di vita, che è la parola di Dio. E stasera andremo a prendere un verso meraviglioso da un libro meraviglioso che è il libro di Neemia. Neemia è un personaggio straordinario del Vecchio Testamento, un uomo integro, un uomo di integrità, un uomo che ha carattere, un uomo che è sensibile, perché lo troviamo piangere e avere compassione, ma al tempo stesso un uomo che è coraggioso. Un uomo che è un combattente, combatte, lotta, conquista, ottiene vittorie importanti per, non solo per se stesso, ma per l'intero popolo di Israele. È uno stratega ed è un leader meraviglioso. E io vorrei che noi insieme prendessimo d'esempio questa sera la condotta di vita di Neemia e soprattutto queste parole che escono proprio dalla sua bocca, che hanno a che fare con la gioia. Io questa sera voglio parlare di gioia. Ci piace? Potete farmi un sorriso visto che parlo di gioia? Mostrate i vostri bei denti. Vogliamo leggere in una porzione del libro di Neemia nella quale Neemia ha già ricostruito le mura di Gerusalemme e già permesso a buona parte del popolo di Israele di tornare nella terra promessa. Se volete, Neemia è il nuovo Mosè, è il nuovo Giosuè, che con la sua fede e la sua condotta allineata alla volontà di Dio permette al popolo di Israele, che è gravato da quella che è la condizione di esilio e di dominio dell'impero persiano e di Babilonia, Neemia permette al popolo di rientrare nella sua terra promessa, di riprendere le proprie abitazioni, di vivere una vita ordinata e di riprendere in considerazione la legge di Mosè, che è la fonte per il popolo di Israele e anche per noi oggi per avere una vita equilibrata, sana e benedetta sotto la guida e il dominio di Dio. Quindi Neemia fa tutto questo e a questo punto della storia di Neemia noi troviamo che il popolo di Israele sta piangendo, è triste ed è rammaricato, perché pensate un po', per un'intera giornata hanno letto la legge di Mosè e il popolo di Israele si è reso conto che ha fallito miserabilmente, sistematicamente nel seguire gli ordini e i comandi che Dio aveva affidato loro per farli prosperare. E quindi è lì che capiscono perché sono stati dominati, perché sono sotto questo dominio dell'impero persiano, perché si ritrovano in questa condizione di miseria, perché sono stati mandati via dalla terra promessa. Comprendono tutto questo e, come è giusto che sia, quando c'è ravvedimento c'è una contrizione del cuore, ed è quella che loro vivono, e quindi stanno piangendo e si stanno lamentando. Però quello che Neemia fa ha dello straordinario, e lo vogliamo leggere insieme. Neemia al capitolo 8 dal versetto 9 dice questo: Neemia, che era il governatore, Esdra sacerdote scriba e i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che hanno quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore, non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I leviti chiamavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non siate tristi. Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a fare gran festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Quando ho letto questi versi, ho subito dovuto pensare ai gruppi in casa che noi organizziamo. Questa settimana ci saranno i gruppi in casa. E sistematicamente noi ubbidiamo a quelle che sono le indicazioni che Neemia ci dà. Mangiamo cibi grassi. Focacce, panzerotti, torte, ciambelle, di tutto c'è nei gruppi in casa. E beviamo bevande dolci, Fanta, Sprite, aranciate, Coca-Cola, vero? E chi più ne ha, più ne metta. Tutto questo solo per dire che stiamo facendo bene, stiamo andando molto bene. Non esageriamo, stasera vedremo che dobbiamo anche un po' rientrare in tutte queste cose. Però, ecco, quella che è l'istruzione che Neemia, i Leviti e Esdra dà è: non siate tristi, per tre ragioni molto specifiche. La prima, perché era un giorno consacrato al Signore. E questa è una cosa interessante. Fratelli, sorelle, questa è proprio una cosa straordinaria che dobbiamo scoprire e riscoprire. Noi abbiniamo troppo spesso i termini santità e consacrazione e culto al Signore come dei termini che sono sinonimo di tristezza, abbattimento e contrizione del cuore. È vero, è qualcosa che forse ereditiamo dalla religiosità. Molto spesso pensiamo che Dio desidera che noi stiamo in questa condizione, invece questa parte, questa porzione della Bibbia, in altre porzioni della Bibbia ci viene spiegato che è tutto il contrario. Addirittura noi leggiamo nel Salmo 100, versetto 2, questo è un verso che conoscete anche molto bene, di servire il Signore come? Con letizia, che significa con gioia. E poi presentatevi come? Presentatevi gioiosi a Lui. Dio vuole che il suo popolo, quando si presenta a Lui, ogni qualvolta noi ci presentiamo a Lui, noi dobbiamo toglierci di dosso il volto scuro, l'abbattimento, la tristezza, perché Dio vuole che il suo popolo sia gioioso. Non abbiamo un Dio meraviglioso. Dio vuole gioia per te. La prima ragione per la quale Neemia dice: non siate tristi e non piangete, perché è un giorno consacrato. La seconda ragione è perché, come abbiamo letto, il popolo aveva compreso. Nell'ultimo verso noi abbiamo letto che avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Quindi loro avevano capito che dovevano tornare alla parola di Dio. Avevano capito che dovevano tornare ai comandamenti di Mosè. Avevano capito che dovevano rimettere Dio al centro e che quello sarebbe stato il mezzo per una vita prospera e benedetta. Quindi, nel momento in cui loro avevano capito, per Neemia, che era un leader meraviglioso, un ministro di Dio stupendo, tutto era risolto. E in quel momento non c'era più nessuna ragione di continuare a piangere, di continuare ad essere tristi. Quante volte nella nostra vita continuiamo ad essere tristi per errori commessi che abbiamo già confessato e che Dio ha perdonato? Quante volte ce ne andiamo in giro abbattuti, demoralizzati, pensando che Dio ce l'abbia ancora con noi per qualcosa che Lui ha già dimenticato? Perché la parola di Dio dice che quando Dio perdona, Lui dimentica. Lui dimentica, letteralmente, Lui dimentica il tuo passato. Lui dimentica i tuoi peccati commessi. Se tu li confessi, se tu, come il popolo di Israele, riconosci che Lui ha ragione, che tu hai torto e che hai fallito e che hai bisogno del suo perdono, nel momento in cui tu lo comprendi, cioè in quel momento tu hai la possibilità di tornare a sorridere, a fare festa, a mangiarti la focaccia e a berti una buona birra, perché con la focaccia ci sta la birra. È quello che la Bibbia dice, non lo dico io. Focaccia e birra per tutti. A fine di questo incontro, focaccia e birra per tutti. Perché siamo perdonati, siamo perdonati. Però c'è un'altra ragione, la terza ragione, ed è la ragione più forte che noi leggiamo in questi versi. Neemia ordina di non rimanere tristi e di non continuare a piangere, perché dice: la gioia del Signore. Popolo di Dio, la gioia del Signore è la vostra forza. Dio vuole che il suo popolo sia forte e la tua forza dipende dalla misura di gioia che hai nella tua vita. La tua forza nell'andare avanti, la tua forza nelle relazioni, la tua forza nelle battaglie, la tua forza nelle conquiste, la tua forza di vita domani al lavoro, la tua forza in famiglia, la tua forza in ogni cosa, nella malattia, nelle circostanze difficili, dipende dalla misura di gioia che hai in Dio. Se sei un uomo, una donna piena di gioia, non una gioia terrena, passeggera, non basata sulla bevanda di fatto e sul panzerotto che ti mangi, ma una gioia che è la gioia del Signore. È importante capire che Neemia lo specifica, manda il popolo a fare festa, dice loro di mangiare, ma dà questa istruzione. È una gioia che devono vivere nel Signore. E quella gioia è la gioia completa. Gesù in Giovanni 15, dopo aver fatto un discorso ai suoi discepoli, dice questo: vi ho detto queste cose, questo insegnamento ve l'ho dato affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Noi siamo come tanti formaggi svizzeri, visto che papà è stato in Svizzera, con tanti buchi. E tutti questi buchi che ci sono nel nostro cuore, nella nostra anima, sono dei buchi che cerchiamo di riempire con delle gioie che sono passeggere, molto spesso in contrasto con la volontà di Dio, che sono peccaminose. E queste gioie non producono altro che voragini più grandi. Ma quando tu incontri Gesù e ritrovi la tua gioia in Lui, quella gioia che è completa, copre tutto e la tua vita diventa benedetta e prospera. Ora, nella Bibbia noi non troviamo solo questo passaggio che ci parla della gioia, questo è meraviglioso, lo troviamo in tutta la Bibbia, in tutti i libri della Bibbia, che c'è questa tematica che si ripresenta, perché dovete comprendere qualcosa che è importante: la gioia è la caratteristica di Dio. Dio è gioia ed è per questo che Lui produce gioia. Lui è la fonte per eccellenza di gioia. Infatti noi leggiamo nel Salmo 16 al versetto 11 che ci sono gioia e sazietà in sua presenza. Quando noi andiamo alla presenza di Dio, noi attingiamo da quella che la sua, quelli che sono i suoi attributi. E uno degli attributi che Dio ha è che Lui perennemente, costantemente e abbondantemente gioioso. Lui è fonte inesauribile di gioia. Non solo è la caratteristica di Dio, ma sapete, no? Vi ricordate quello che leggiamo in Galati 5, versetto 22? Che lo Spirito Santo nella vita del credente, e lo Spirito Santo è la terza persona di Dio, produce gioia. Infatti c'è scritto in Galati 5, 22, il frutto dello Spirito, ascoltate l'ordine, è amore. Chi mi aiuta? Gioia, avevate qualche indizio? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, eccetera. Amore al primo posto, gioia al secondo. Non è straordinario? Nell'elenco che ci viene presentato, che parla di ciò che produce lo Spirito Santo dentro di noi, al secondo posto, dopo l'amore, c'è la gioia. Dio è autore di gioia, produce gioia in noi. Ed è caratteristica del regno, visto che questa tematica l'abbiamo toccata un po' più da vicino, no? Il regno di Dio, noi dobbiamo comprendere che il regno di Dio ci viene descritto nella parola di Dio, e se andate a leggere in Romani 14 c'è scritto proprio che il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Non è straordinario? Delle tante caratteristiche che si potevano dare al regno stabilito dal Re Gesù, nel momento in cui tu riconosci Lui come autorità, come re nella tua vita e rientri in quello che è il suo regno, in quella che è la sua autorità, a quello che è il suo governo, Lui ti dice: io stabilisco un governo che non è un governo umano, ma un governo che è più alto, che è superiore, ed è un governo di giustizia ed è di pace ed è di gioia nello Spirito Santo. Non è trascurabile questo aspetto. Non è una tematica che stiamo trattando questa sera perché è bello parlare della gioia. No, è qualcosa di portante, qualcosa di ingombrante nella parola di Dio. E poi c'è addirittura nel Nuovo Testamento, in più di un'occasione, scritto nero su bianco che noi abbiamo un comando da parte di Dio a vivere gioia. Il Re Gesù ci dà un comando che è ripetuto più volte, e ve lo voglio leggere, che è un comando di essere gioiosi. Filippesi 3, versetto 1. Fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Filippesi, sempre 4, che è una lettera che viene chiamata la lettera della gioia, versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Non l'ho detto io, ripeto, è proprio scritto nella parola di Dio. Cioè, non basta che l'ha già detto nel capitolo 3, ora nel capitolo 4 lo dice di nuovo e lo ripete. Non ci sono tanti altri comandi, anzi, che io sappia, non c'è nessun comando nella Bibbia che trova questa terminologia. Non c'è scritto non ammazzare, vi ripeto, non ammazzate. Non dire bugie, ti ripeto, non dire bugie. Non commettere adulterio, ti ripeto, non commettere adulterio. Però della gioia c'è scritta questa cosa ed è straordinario. Rallegratevi sempre nel Signore, sempre, ripetutamente nel Signore. Ripeto, rallegratevi. 1 Tessalonicesi 4, 16, vado avanti. Siate sempre gioiosi. 2 Corinzi 13, 11. Fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, eccetera, eccetera, eccetera. È un comando di Dio. Dio ci dà questo comando. Dio ci affida un ordine. E quindi la domanda a questo punto, visto che abbiamo toccato questa tematica, abbastanza in insufficienza, no? Leggendo più versi, la domanda che ci rimane da porci è: ma come si vive questa gioia? Come abbiamo possibilità di vivere la gioia del Signore? Beh, io partirei dagli ultimi versi che ho letto, perché se è un comandamento di Dio, vivere la gioia significa che diventa per noi una scelta. Vivere gioia nella tua vita è una scelta che tu fai. Vivere gioia nella tua vita non dipende da quanti soldi hai, in che posizione ti trovi, come ti vedono gli altri e come ti vanno le circostanze di vita. La gioia nella tua vita è come un vestito, è come un vestito che tu scegli di indossare. Io stamattina ho scelto di indossare questa camicia, che ti piaccia o meno. Questa è la mia scelta. E l'ho scelto anche abbastanza accuratamente, perché sapete cosa capita? Che scelgo sempre i soliti vestiti, soprattutto quando salgo qui sul palco. L'avrete notato, no? Che ci avrò quelle 2 o 3 maglie che metto sempre. E quello che mi succede ogni tanto è che, andando a vedere su YouTube, no, tutte le prediche mie, mi rivedo sempre con la stessa faccia, con la barba che leggermente cresce di più, ma il maglioncino è sempre lo stesso. E ho cominciato a pensare, forse qualcuno si pone il problema che non ho altri vestiti a casa, e quindi stamattina ho scelto di indossare questa camicia. Vi piace? Siete contenti? Molto bello, grazie, grazie sorella. Ora, il vestito noi lo scegliamo. Tu ogni mattina, spero, ti togli il pigiama, cambi l'intimo e ti rivesti con dei vestiti che scegli di indossare. Ed è qualcosa che tu fai abbastanza meccanicamente oramai, senza neanche pensarci più di tanto. Soprattutto io non ci penso moltissimo a cosa indosso. C'è qualcuno che da qualcuno ho preso, no? Mio padre, mia madre, non è che sono proprio, a volte hanno messo scarpe diverse, colori di papà, mamma punta a papà naturalmente, no? La giacca di un costume, il pantalone di un altro, no? Però ecco, noi facciamo questa cosa in una maniera automatica perché ci è stata inculcata e insegnata da quando eravamo piccoli. Scegliere di indossare la gioia è una scelta che tu fai, e forse finora non l'hai mai fatta, ed è per questo che ti trovi dei vestiti che sono degli stracci, sono pieni di buchi e pieni di macchie. Ma è una scelta tua toglierti di dosso quei vestiti e indossare la gioia. È una tua scelta andare al lavoro e decidere di vestirti di gioia. È una tua scelta, in modo particolare, quando torni a casa dopo una lunga giornata di lavoro, dopo che sei stato stressato, dopo che ti sono state dette parole, vestirti di un vestito di gioia per portare in casa tua un'atmosfera che è diversa, che non è influenzata da quello che tu hai vissuto durante la giornata, ma è influenzata dalla tua scelta. Tu hai la possibilità di essere un Neemia che sceglie a un certo punto di dire basta pianti, basta tristezza, basta lamenti, basta mormorio, è tempo di fare festa, è tempo di gioire, è tempo di rivestirsi col giusto vestito. Padri di famiglia, mariti, è una vostra scelta portare gioia in casa. È una vostra responsabilità essere dei Neemia. Vuoi essere un buon leader? Allora comincia da casa tua, nel dove nessuno ti vede, nel segreto della tua famiglia, del tuo matrimonio, delle tue relazioni. La gioia è una scelta. E questo è il mio primo consiglio, che non è mio, è biblico, visto che è un comando così tanto ripetuto. E ce ne sono altri 2, però prima di parlare di questi altri 2 come poter vivere la gioia, voglio leggervi quello che ha scritto un uomo del terzo secolo. È uno scritto anonimo di un uomo che, vicino alla morte, scrive queste parole al suo amico. E dice: Viviamo in un mondo malvagio, un mondo incredibilmente malvagio. Ma nel suo mezzo ho scoperto un gruppo di persone silenziose e sante che hanno imparato un grande segreto, una gioia che è mille volte migliore di qualsiasi piacere peccaminoso. Queste persone hanno vinto il mondo. Sono i cristiani. E io, scrive al suo amico, io ora sono uno di loro. Tu hai la possibilità di scegliere di essere cristiano nel vero senso della parola. Non cristiano perché vieni in chiesa, non cristiano perché ti rivedi in un certo ambiente, ma cristiano perché sei seguace di Cristo e perché vuoi ricalcare quello che è il percorso che Lui ha prestabilito per la tua vita. E nel momento in cui ti appropri di questa caratteristica che è sua, tu vinci il mondo, tu cambi il mondo, tu cambi le situazioni. C'è potenza nel sorridere, c'è potenza nel portare gioia dove c'è tristezza, c'è potenza nel non ricambiare al male avuto altro male. A parole negative, a mormorie, a critiche, a insulti, altre parole a specchio. Noi non siamo degli specchi, noi siamo fonte di luce. Gesù che dice: noi siamo la luce del mondo, e il mondo che ci circonda deve poter vedere in questo gruppo di persone, persone che sanno sorridere sempre. Ed è la testimonianza più forte. Ed è meraviglioso, io potrei parlare di tante storie, di persone, di voi, che nel mezzo della battaglia, nel mezzo della malattia, avete avuto un sorriso, avete vinto con la gioia. C'è Shakespeare che ha scritto una frase che è interessante, che dice, non ce l'ho segnata, non l'ho segnata, vediamo se la ricordo a memoria. Shakespeare dice: quando tu sorridi a colui che ti ha rubato qualcosa, con il tuo sorriso lo stai privando della gioia del furto che ti ha arrecato. Quando tu sorridi davanti alle situazioni difficili della tua vita, tu stai dicendo a quelle situazioni: voi non avete l'autorità di rubarmi il bene più prezioso. La mia fede in un Cristo e in un Dio che è sempre buono, e il mio sorriso non sarà determinato da quello che succederà, ma quello che è il mio sorriso cambierà le circostanze attorno a me. Sorridi, sii gioioso, scegli di farlo. Come altro puoi essere gioioso? Beh, l'abbiamo sentito la scorsa settimana attraverso il messaggio meraviglioso di Gianluca sul Salmo 107, con la gratitudine. La gratitudine, essere grati è uno strumento, anzi è un'arma potentissima. La tua gratitudine è un'arma che ammazza la delusione, che ammazza l'amarezza, che ammazza ogni sentimento negativo, l'ansia, la paura. Quando tu sprigioni attraverso la tua bocca gratitudine, tu ammazzi tutte queste cose nella tua vita. Quando tu ti alzi la mattina e dici: grazie Signore per la casa che ho, grazie per il letto nel quale ho dormito, grazie perché mi posso alzare in piedi, grazie per la moglie che ho, grazie per i figli che ho. Nel momento in cui tu cominci a esercitare questa gratitudine e anche a manifestarla agli altri, perché c'è potenza creativa nella nostra parola, in quel momento ammazzi l'amarezza, la delusione e la morsa del diavolo che vuole derubarti e derubarti e derubarti ancora territori. Oggi è il tempo di dire basta all'opera del nemico, del diavolo, nella nostra vita, e indossare un sorriso, avere gioia e vincere. È una tua scelta, e essere grati è il mezzo. In 1 Tessalonicesi 4, quello che leggevo prima, c'è scritto: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie. Se vuoi avere gioia, devi connettere questi tre esercizi, queste tre azioni. La gioia dipende dalla preghiera, e una preghiera efficace dipende dalla gratitudine che c'hai nel cuore. Vuoi avere una preghiera potente? Non andare a lamentarti da Dio. Lo puoi fare, assolutamente. Dio ama che noi ci sfoghiamo alla sua presenza, ma non fare solo questo. Ringrazia, loda, innalzalo per ogni cosa che hai. Perché posso darti una notizia questa sera? Tu sei ricco. Tu sei ricco. Tu sei ricca. Tu sei abbondantemente ricca. Sapete, questa è una cosa che ci dicevano spesso i nostri genitori in casa. Figli, voi siete ricchi. È bellissima la fede dei bambini, perché noi ci credevamo. E ci credevamo a tal punto da tornare a scuola, ai nostri amichetti di banco, dire: sapete una cosa? Noi siamo ricchi. La nostra famiglia è ricca. E tutti dicevano: ma davvero? Eppure non sembra. No, noi siamo estremamente ricchi. Sapete, i miei genitori non mentivano. Ci stavano mostrando la vera ricchezza, che non è basata sui beni che hai, sul conto in banca. La vera ricchezza è la ricchezza d'animo, e io sono ricco, abbondantemente ricco, e non mi manca nulla in Cristo Gesù. E tu, ti voglio ricordare che se hai Cristo sei ricco, sei ricco. Valla a dire in giro, a partire da domani vai a scuola, vai al lavoro e dici: io sono ricco, io sono un milionario di beni preziosi, inestimabili. Terzo mezzo attraverso il quale noi possiamo vivere la gioia, e con questo voglio concludere. Vorrei che veramente prestasse attenzione, perché questo è un aspetto un po' delicato. La gioia è una scelta, si innesca nella gratitudine, ma anche dipende dal sacrificio. Io voglio spiegarvela questa cosa, perché a volte noi sfuggiamo al sacrificio, noi sfuggiamo al dolore, noi non vogliamo attraversare stagioni di sofferenza, però la Bibbia ci dice che la gioia è qualcosa che si ottiene attraverso il sacrificio, attraverso il dolore, attraverso determinate rinunce. Ed è Gesù che è esempio di questo, è modello in questo, in quanto in Ebrei al capitolo 11 versetto 2 ci viene fatto questo invito di fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. E ascoltate ora che cosa dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, per la gioia che era posta dinanzi a Gesù, per quello che lui vedeva quale premio, quale vittoria, quale gioia di inestimabile valore, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò cosa? La croce, non poca cosa. Per la gioia che gli era posta dinanzi, lui sopportò la tortura, lui sopportò l'infamia, lui sopportò le ingiurie, lui sopportò l'umiliazione, lui sopportò tutte queste cose, perché sapeva che al di là della croce ci sarebbe stata una gioia. E ci sono delle gioie nelle nostre vite che si sbloccheranno solo attraverso sofferenza, attraverso sacrificio e attraverso dolore. Non lo voglio presentare in una maniera diversa, perché troppo spesso siamo invitati a fare a meno di queste stagioni, a fare a meno di questi processi, ma la Bibbia è piena, e io ti voglio incoraggiare, perché sapete, una leggera e temporanea sofferenza produce una gioia che può durare anni nella tua vita. E io ti invito a vivere la sofferenza. Vivere la sofferenza della correzione, no? A volte siamo troppo orgogliosi, arroganti. Sappiamo fare tutto, sappiamo vivere la nostra vita. Noi siamo i miglior leader di noi stessi. Eppure la Bibbia ci invita ad essere sottomessi a persone più mature nella fede, a ministri di Dio, a farci correggere, ad apprezzare la correzione. Nessuno ti obbligherà in questa chiesa ad essere corretto, nessuno ti obbligherà a un percorso di cambiamento, è una tua scelta, però a volte è necessario per salvare delle relazioni, per uscire da determinati circoli viziosi che ci sono nella tua vita, forse da anni. Circoli viziosi che non si disinnescano, hai provato con tutte le tue forze, ci hai provato con tutti i tuoi mezzi e non ci sei ancora riuscito. La strada sai dov'è? Nell'aprirti, mostrare le tue debolezze ad altri e farti aiutare. Ed è una cosa dura, difficile, sofferente, ma che poi produce gioia che dura per anni. Nei matrimoni, noi abbiamo visto così tanti matrimoni benedetti, salvati, perché persone hanno scelto di mettersi in quel processo di cambiamento, di modellamento, di correzione. Famiglie, educazione dei figli di adolescenti, no? Che non è facile educare i nostri figli, ma nel confronto, nell'apertura, nel parlare delle nostre debolezze, dipendenze da alcol, da droga, da qualsiasi, dal gioco d'azzardo. Se tu credi di poter vincere queste cose da solo, molto probabilmente continuerai a vivere quei circoli viziosi nei quali ti stai ritrovando oramai da troppo tempo. Ma se permetti ad altri di aiutarti, di conoscere le tue debolezze e di correggerti, per quanto possa essere sofferente per un periodo, poi produrrà una gioia che avrà delle ripercussioni meravigliose nel tempo. Ed è per questo che ti invito a non sfuggire alla sofferenza, leggere la parola di Dio. Per alcuni di noi è veramente una sofferenza leggere in generale, eppure leggere la Bibbia, anche quei 10-20 minuti al giorno, quella leggera sofferenza, quel leggero sacrificio produce una gioia di inestimabile valore, perché tu stai aprendo la parola di Dio e stai permettendo a Dio di parlare, di correggere, di intervenire nella tua vita. E potrei andare avanti con tante altre cose per i ragazzi, per chi va a scuola, dare il meglio di se stesso negli studi, dare il meglio di se stesso senza copiare, senza imbrogliare, senza essere senza trovare delle scorciatoie, perché non portano da nessuna parte. Ma impegnandosi nello studio, quella sofferenza temporanea produce una gioia a fine del percorso che tu fai. Per chi lavora, la tua sofferenza di essere un buon lavoratore produce gioia nella tua vita, perché sei soddisfatto di vivere una vita che è al servizio e che è in ubbidienza, che è sottomessa a Dio. Questa sera vuoi scegliere? Vuoi scegliere di avere gioia nella tua vita? Allora indossa vestiti nuovi, cambia questi vestiti vecchi, cambia le parole vecchie, scegli di sbloccare la gratitudine, comincia a ringraziare per ogni cosa abbondantemente e comincia a scegliere una cosa, solo una cosa. Non devi cambiare tutta la tua vita, ma scegli una cosa che sia un processo di sofferenza, di dolore. Magari mangiare anche sano, andare in palestra, no? Lo so che è doloroso, però fa bene. È doloroso, dice Pino. Scegli stasera, perché quella momentanea sofferenza, quella mezz'ora di palestra, fa bene non solo al tuo fisico, ma anche alle tue emozioni. Vedete, Dio è interessato alla nostra vita in una maniera completa. E la Bibbia dice che noi siamo costituiti da spirito, anima e corpo. Tu starai bene se c'è equilibrio in tutti e tre gli aspetti, non solo quello spirituale, ma anche nel tuo corpo. Per questo ci sta che mangi cibi grassi e bevi bevande dolci, ma quale occasione speciale per fare festa. Neemia la dà come indicazione: per fare festa. Non può essere la tua quotidianità. Scegli di mangiare sano. Con questo voglio concludere. La conclusione di questo messaggio stasera è: mangia sano. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo pregare. Gloria a Dio, è troppo bella la parola di Dio, quante istruzioni ci dà, quanto ci corregge, quanto amore c'è in Dio. Stasera, se vuoi tutto questo, dici io voglio che questa sera non sia solo una bella serata da ricordare, ma l'inizio di un cambiamento di vita, allora ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e alzare le tue mani. È un segno di arresa ed è meraviglioso poterlo fare insieme. Alza le tue mani e voglio pregare per ciascuno di noi. Grazie Gesù, perché queste mani sono alzate in alto per dirti che noi ci arrendiamo, che in noi stessi noi non sappiamo vivere una vita piena e abbondante, ma sappiamo che in te possiamo vivere la pienezza di vita, la pienezza di una vita che gode di gioia. Noi abbiamo il privilegio di essere degli uomini, delle donne, delle famiglie cariche di gioia, e noi vogliamo portare gioia in questo mondo, noi vogliamo vincere questo mondo, noi vogliamo che questo mondo si renda conto che c'è una gioia che è di inestimabile valore e viene dall'alto, viene da te. Padre, io prego affinché la gioia, quale frutto dello Spirito Santo, si possa sbloccare nella vita di ognuna di queste persone. Io ti prego che a partire da questa sera la presenza del tuo Spirito al lavoro, nella quotidianità, in famiglia, nelle relazioni, nel matrimonio, nell'essere genitori, pare che la tua gioia possa caratterizzare questi ambienti e che ciascuno di noi possa essere un Neemia, responsabili non solo della nostra gioia, ma anche nel creare contesti di gioia, nel portare altri a gioire e a smetterla di piangere e di rammaricarsi e di essere appesantiti da notizie negative. Pare, noi vogliamo sbloccare quella festa che tu ci inviti a vivere qui su questa terra. Io prego, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà nel nome di Gesù per ciascuno di noi. Amen. Amen. Alleluia.